Allora, dicevo, ci stiamo avviando alla fine, siete su Rock FM, questa è la Nottedo. Allora, siamo riusciti a coinvolgere anche Davide dei Ministri, che ci è venuto a trovare a sorpresa stasera. Quindi con l'ennesima nuova band che si è venuta a formare, quindi con il Borchi alla chitarra, Tongio al basso e Aldo alle percussioni. Andiamo un po' questa di... qua è l'improbabile coppia. Esatto. Andiamo un po' di jam session. Occhio Davide, c'è il cavo che ti passa. Fai il salto del cavo, perfetto, ok, ready to rock, ok, let's go. Via la base, grazie Peter. Oh, a Peter gli faccio un monumento, cazzo, è stato lì tutta la sera. Un applauso per Peter. Grande Peter. Ok, pronti? And twist of fate on a bit of nail, she makes me wait. A Pita alla console e a tutti quanti quelli che sono accorsi stasera, soprattutto Borchia. Grazie Davide, grazie mille. Davide dei Ministri alla voce per With or Without You, grazie davvero, thank you for coming. Grande man. Davide! Alle. Allora, dunque, adesso abbiamo bisogno di un Aldo alla voce e di un Numa a una chitarra e di un Borga alla batteria. Che si fa? E devi tornare quella che abbiamo deciso prima, carissimo. E anzi, vi prego di essere veloci perché sei davvero bravo la chitarra. Grazie, Davide. Ok? Bene, perfetto. Beh, adesso siamo. Allora, c'è un momento di cambiamento. Nel frattempo io conduco, faccio quello che conduce. Hey, salve. Hey, ciao. Bravo DJ. Allora, dunque 335 100 77 77, questo è il numero SMS che, essendo le 4:20, potete ancora utilizzare perché è ancora attivo. Poi in realtà io non so che cosa andrà in onda fino alle 7 di domani mattina, che non c'è di programmato niente, però noi abbiamo deciso che entro le 5, così cerchiamo di chiudere, perché insomma, poi insomma, io domani vado a lavorare, voi comunque domani da fare, quindi poi domani sono di nuovo qui tra non molto. Anzi, vi aggiorno che domani sera sarò intorno alle 18:30-19 qui con i Lacuna Coil. Però ospiti, sì, infatti, verranno anche loro a fare un po' di jam, eccetera, sarà bellissimo. Ma che sballo! Allora, ci siamo? Aspetta che. È ripartito sta affare qua. Fa 10. Ecco fatto. Ok. Questa è proprio. Allora, la band ora è formata da Vaialdo, presenta tu. Beh, dunque. Aldo, ma ti devo fare la bassa. Ma se mi vuoi far la bassa, fammi la bassa. Fagli la bassa. No, ma no, tu falla da lì, va benissimo. Allora, abbiamo alla batteria il nostro grandissimo Borchia, al basso Tonjo, alla chitarra Edo R e all'altra chitarra Numa. Yeah. E questa è per tutti quelli che hanno seguito Rock FM fino ad adesso. Ma sono a zero. Nel frattempo qua, aspetta, abbiamo dei problemi di delay. Sapete che i musicisti hanno dei grossi problemi con gli strumenti. Ok, a posto. Ce l'abbiamo fatta. Ok, questa qui è una canzone che tutte le volte che la facciamo un po' ci commuoviamo, quindi assolutamente. Non vorremmo che succedesse anche stavolta, però insomma. Mi raccomando, a casa, pronti coi fazzoletti. But I can feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking. Farm and babies with sleds are at working. Blood is on the table, the fires are choking. Scusate un attimo. Ragazzi, nelle ultime notti di vita di uno succedono anche queste. Sì. Se faccio così. Tirami il cantino. Porca miseria, scusate un attimo, momento di accordatura. Eccoci. Eccola lì. Ok. Da capo. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence. But I can feed on the powerless class when my car's already overfilled. Kicking. But it's on the table, the fire's cooking. And the farmer baby with slaves are at working. Blood is on the table, the fires are choking, but I'm gone hungry. Yeah, I don't mind stealing bread from the mouths of decadence, but I can feed on the power last when my cup's already. Un saluto a Kate, un saluto a chi scrive, un saluto ad Andre, un saluto a un sacco di altra gente che scrive, un saluto a Carlos, chi è ancora sveglio, che sta ascoltando la radio o chi in realtà non è ancora andato a dormire. A questo punto potremmo mettere ancora una canzone e poi chiudiamo con la jam finale, eh? Cosa dici, Peter? Vai! looking through the tears. Out of the black slate time, we move in line, but never reach an end. Falling along straight down as the ice comes down, rivers start to bend. And if you think that I've been losing my way, that's because I'm slightly blinded. And if you think that I don't make too much sense, that's because I'm broken inside, mamma mia. E questi erano anche gli Steel Skinner. Vabbè, anche questi avevano un motivo di esistere. Allora Peter, togli la musica, siamo qua per l'ultimo pezzo. Allora, maniscalco mal destro a Camporas, ministri tutti qua, questa è stata la Nottedo, poi sentiamo ancora un disco, vengo a fare i saluti ufficiali. Grazie a tutti voi comunque che siete intervenuti, grazie ragazzi, grazie per esservi tenuti qua questa notte, è stato un piacere, grazie. E come noto, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. bass guitar, Mr. Borkia. We'll be right back. allora Tommy Gunn, questi Clash naturalmente non potevano mancare anche loro all'interno della Nottedo. Sono le 4:41 e si è deciso di chiudere anche per una questione di disponibilità. D'altra parte dai, anche martedì notte, anzi ormai mercoledì da 4 ore abbondante. Allora io vorrei salutare innanzitutto, vorrei ringraziare tutti i musicisti che si sono fermati qua con me questa sera: Tongio, Dado, Numa, lo dico in ordine sparso, naturalmente chi c'è? C'è Davide dei Ministri, gli altri Maniscalchi, il Borchia, naturalmente French, Aldo dagli Acampora, se naturalmente Peter in the Shadow of the Shadow, che è venuto a darmi una mano assolutamente molto importante, è stato bellissimo, grazie a tutti. Poi in realtà sono transitati di qui anche parecchi altri ospiti, è stata una bella Nottedo, sono felice, sono contento e insomma porteremo questa icona adesso bisogna, esatto, adesso in realtà la festa comincia adesso. Ora devo ancora dare un'occhiata a vedere quello che succederà a Rock FM, perché se non parte l'automatico mi tocca stare in onda fino alle 7, però se, conto insomma conto di farcela. Ci sentiamo domani intorno alle 19 con i Lacuna Coil. Per quanto mi riguarda, da Edo Rossi è tutto, ci sentiamo domani alle 19, grazie, buonanotte.